Come, Gufo? Vai salita questa strada. Questa era una bella salitina, ma adesso... la discesa. Ok, ok, tranquillo, tranquillo. Adesso c'è un incendio, l'hai visto che fumo? Sì, infatti sto guardando per capire, ma non lo so. Tra un po' passo che abbiamo la prima deviazione, ma niente di speciale. Capa. Come usciamo dalla seconda galleria, c'è un ponticello, perfetto, quindi magari facciamo piano piano. CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Hola, c'è qualcuno? Ciao Mirko, ti ascolto bene, ben sentito. 9 più 5 qua. Sì, sì, quindi mi ascolti anche meglio a me, se non sbaglio. Non ho capito, scusa, cosa hai detto? Ah, ok, così mi dà un rapporto più esatto. Ci sei? Sì, ci siamo. Allora, fai un rapporto. Questo è il canale 10, la frequenza è il 27.075. Se mi dai un rapporto di Santiago e di radio. Non mi porto flussi, niente. Va bene, dai, sono contento. Dai, sono contento che hai anche migliorato tu. Diciamo che ti ascoltavo anche prima, quando eri un pochettino più basso, però superi il 9 qua di segnale. Se sei pulito senza nessun aiuto, stai andando alla grande. Va benissimo, allora, va alla grande. Vediamo nel frattempo se c'è qualcuno che vuole entrare. Attenzione, il canale 10 è libero. Se volete entrare in compagnia qua di Roberto e di Cristian dall'altra parte. C'è Cristian e Mirko, scusate. Niente, vai avanti ancora tu, Mirko. Comunque, oggi è una bella giornata. Non so se Alghero ci sia ancora tanto mare. Gente al mare, però è una bellissima giornata. Calda e piacevole. Forse me l'hai detto, ma non me lo ricordo. Di cosa ti occupi tu, Mirko? Consegna legno? Ah, cavolo, ne abbiamo un altro di falegname, anche se è andato in pensione. Giulio, grande falegname, qua a Sassari. Molto, molto conosciuto, una vita che fa quel lavoro lì. Anche il babbo faceva il falegname. Sono contento, due falegname. Che tu sei, diciamo, in età quasi pensionabile, diciamo. Registrato il break. Vai, ma non fai venire avanti tu, credo che sia Claudio da Muros. Avanti, Mirko, per te. Dai, se non hai fatto venire avanti tu, lo faccio venire avanti. Credo che sia Claudio. Avanti il break. Sentito, sì, qui è Chiodo Ruggito, operatore Claudio, tu piazza di Muro, sì, saluto anche a Mirko, sì, buonasera Mirko, sì, purtroppo ti ascolto in basso, anche Mirko, però un po' che tu riesco a tirarti fuori, riprendi Roberto. Sì, ciao Claudio, ben sentito, adesso ti mando per i saluti avanti. Mirko, l'hai ascoltato a Claudio? Quindi sta arrivando bene anche tu, Claudio, lo vedi? Sì, questo è il... ad ascoltarlo e riprendi Mirko. comunque supera il 9 qua di segnale e stiamo trovando l'Alghero. Sì, questo è il Alghero, segue la Juventus, ho pareggiato lo Spezia 1-1 il risultato al minuto, adesso avendo il tempo non lo vedo, comunque siamo intorno alla mezz'ora, 36esimo 1-1 tra Spezia e Juve, ha segnato non ricordo che ha segnato McKinney ha segnato per la Juve, e poi l'altro un bellissimo gol, tutti e due belli comunque. Ok, prosegui, devi fare quello che devi fare tu Mirko, ci siamo qua eventualmente, vai Claudio. Sì, siamo qua, io mi ricordo, entro, mi faccio sentire la sera, e sì, guardo la squadra, quelli diciamo non è che sono molto tifoso della Juve, perché sono stato sempre milanista da quando sono nato, però la Juve secondo me è la squadra più forte che abbiamo in Serie A, e perché bisogna metterla, bisogna, però anche il Milan mi fa una capito perché è sempre andato forte, soprattutto nei primi anni 90, e io sono stato sempre milanista, Sì, sì, anche io non sono sfegatato, ma sono milanista anche io sono sportivo, mi piace vedere tutte le belle partite, in particolare un po' di più il Milan, però non sono di quei tifosi che vanno in piazza a fare macello, se perde la squadra si mettono a soffrono tutta la settimana, no, quello no. La nazionale sono molto attaccato, quello sì, però per il calcio, visto che ci vivo, io sono nato in mezzo al calcio, per cui sono diventato abbastanza tollerante, dai. Ok, non mi hai mandato il numero però Claudio. Tramite tuo babbo un numero di casa, soltanto per dire, molte volte se magari mi chiami così so che quel numero è il tuo, se dovesse succedere se magari non rispondo. E cazzo, se me lo dicevi, c'era un cane Salvatore, quello che è morto, il radioamatore, c'è un pastore tedesco di 4 anni, non sanno a chi darlo. Io mi auguro che siano già riusciti a darlo, perché era un cane bellissimo, ho visto le fotografie che hanno pubblicate, e purtroppo non sanno come tenerlo. Spero che l'abbiano dato a qualcuno, se no è un problemino. Però un cane affettuosissimo, molto intelligente, il proprietario Salvatore, non so se tu ricordi, quando qualche volta ha modulato anche qui, viveva per quel cane, perché era solo, c'aveva solo quel cane, e purtroppo speriamo che lo prenda in mano qualcuno che riesca a curarlo bene. Sì, questo è era un quadro più grande. piacciono, però non ne tengo perché non le voglio tenere perché non ho spazio. Preferisco, cioè se avessi abitassi in campagna, cose così va bene, però qua mi ha tolto, dopo che sono morti gli ultimi due, ho finito tutti i giochi, ne ho avuto diversi di cani, eravamo in officina, ma è peggio di un cristiano il cane. Poi quando muore ti dispiace come un parente, per cui ho detto basta, lasciamo perdere. Ok, il cane che c'è tu non ce l'ho esattamente presente, me lo immagino, però è un cane abbastanza impegnativo, bisogna stare un po' attenti per curarlo e soprattutto educarlo in un modo tranquillo. Dieci, avanti devono entrare, non c'è qualcuno in propagazione sotto, però non si capisce quello che dice. Ok, altro non c'è, proseguito tu, a te mai. Mettergliela vicino nella cuccia, così lo annusa, si gioca, lui lo butti in terra e in modo che lui si abiti a quell'oggetto, perché adesso anche il rumore, a me è capitato anche al canetto che avevo io, la stessa cosa, neanche a parlare, poi glielo butti di lì in terra e lui magari si gioca, lo stringe, lo muscica, poi quando glielo metti piano piano nel tempo, tenete presente se un cagnetto così piccolo di età è ancora un cucciolo. Amici del Rottweiler, allora magari qualche informazione più precisa, diciamo, ci sono molto più molte volte che di quello che leggi nei giornali o nei libri o su internet. Ok, lasciamo un attimino in bianco ancora, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti su 10 chi vuole entrare. Sono passati la notizia, ciao, che fa schifo questa Juve, sai carezzare. È andato guardando anche uno a uno, mi dico comunque una cosa. C'era poco fa un tuo collega, Giulio, lo sai? E chi? Quello di Alghero, Mirko, e anche lui un falegname. Ah, io ho capito. L'ho sentito qualche volta, già l'ho sentito. Ciao Claudio! Ciao Giulio, buonasera, ho sentito. Sì, mi stavo parlando poco fa del calcio, ho detto, sono molto contigo, Giulio, molto tifoso, ero anni fa tifoso del Milan, sono stato sempre tifoso anche della Milan, che si è perso il Milan purtroppo, però quella è stata sempre la mia squadra, però la Juve, guarda, ultimiamo essere in questi anni saranno veramente forte, c'è sempre andata forte, io penso che sia la squadra più forte che abbiamo in Serie A, sono forse più forte, se oggi magari non sta facendo un buon risultato, saranno sicuramente anche grandi campioni in quella squadra, tanto di cappello alla Juventus, quindi Giulio. Ok Claudio, sì, questo sì, senza dubbio è una squadra molto blasonata, però quest'anno sta lottando per non retrocedere, guarda, perché non è possibile che dopo 5 partite abbia appena 3 punti. E che non è finita, magari si possono ridurre a 2 se perde, perché c'è ancora il secondo tempo da giocare. È veramente una vergogna, hanno rovinato la Juve, sia la dirigenza che l'allenatore, perché quell'allenatore non era da essere ripreso la Juve, per carità. Ah, Roberto, immagini, per 4 anni 9 milioni l'anno, e Pirlo, ragazzi, che faceva meglio di lui, 1,8 milioni l'anno, e l'hanno licenziato, che vergogna. Vabbè, già si riprende, ma io non sono mai stato juventino, però si riprende e vedrai che la Juve ritornerà ai vecchi splendori. Comunque ho letto poco fa su internet che il Barcellona ha contattato a Pirlo, perché Koeman probabilmente fa le valigie e lo mandano via, perché ha perso anche domenica o sabato, non so, quando ha giocato il Barcellona, ha perso 3-0 col Bayern, per cui sono scontenti, e hanno contattato a Pirlo. Allora, sono contento con Pirlo e speriamo che se va lì, perché è una persona che merita, è stato un po' snobbato qua in Italia, l'hanno fatto a pezzi, purtroppo è un allenatore e nel calcio è così, se ci sono i risultati sei in mezzo ai cosa, una star diventi, se sbagli le partite con la Juve non ti puoi permettere di sbagliare. Però io dico che Allegri non è uno stupido, per cui si risolverà la Juve, diciamo non è più la vecchia Juve degli anni passati quando avevano uno squadrone. Adesso io vedo come favorita l'Inter, mi ha impressionato, l'ho vista giocare con Real Madrid, che Real Madrid è una grandissima squadra e posso dire, secondo me la favorita a vincere lo scudetto, se non perde colpi o qualche scontro diretto lo vincerà lì tranquillamente. Ma cosa vuoi che ti dica? Sì, capisco che ancora la strada è molto lunga, però no, non è possibile, guarda, che si possa fare un inizio di campionato una squadra come la Juve, là, io posso capire, si può anche perdere, perché giustamente anche gli altri sono uomini e stanno giocando anche loro per vincere, però quando tu consideri che sono già 7 partite e ancora non è riuscita a vincere, è proprio veramente vergognoso, guarda, no, non è possibile, all'infuori di quella partita col Malmo di Cempio, ma per il resto sono da piangere, guarda, sono da piangere, la Juve quest'anno è da piangere, basta pensare che penultima in classifica, abbiamo detto tutto. Avanti Claudio. Però Ronaldo ha già dato, per me era giusto che andava via, per cui nostre prime donne ce l'ho a un certo punto, i primi due anni va bene, ma questo, quest'anno era meglio, mi dispiace perché l'hanno dato a niente, dovevano darlo un po' prima, perché mi dispiace perché vedere un giocatore un campione ai suoi livelli, però le prime donne se a un certo punto, così farà la stessa fine Messi, ci vuole gente più motivata, anche se lui ti fa 30-40 gol a campionato, tra campionato e coppe, ci riesce a farlo tranquillamente, però la squadra si sente un po' a disagio secondo me, quando è quei campioni lì, quei fenomeni lì, la squadra viene vista secondo le punizioni tutto lui, i rigori tutto lui, e per cui non è, no, cioè è utile per certe cose, però crea dei discompensi per il resto della squadra, siccome il calcio è un gioco di squadra, eccetera eccetera, per cui viene male, la squadra secondo me viene penalizzata dopo un certo punto, all'inizio magari c'era l'entusiasmo, il primo anno eccetera eccetera, e ha fatto la differenza, il secondo così così, quest'anno forse è meglio che è andato via. Ok, se vogliamo cambiare argomento parliamo di altro. Comunque la partita ce l'ho sotto col telefonino a fianco a dove sto parlando e sono abbastanza informato, se volete sapere qualcuno il risultato ce l'abbiamo in diretta. Ok, di nuovo a te Giulio. Ok, vabbè, no, non è così, secondo me, io lo penso diversamente, io dico che la Juve non si meritava a Ronaldo, invece considerato che non è stata in grado di fargli una squadra a livello di Ronaldo, perché non è possibile, ragazzi, che uno prenda un campione del genere a 31 milioni l'anno e poi prendere e mettergli accanto dei cadaveri, perché quelli erano tutti cadaveri, e devo dire che questi ultimi due anni la Juve ha tenuto perché? Perché proprio perché c'era Ronaldo con i suoi 35 gol a stagione, per cui Ronaldo è un grande campione, solo che ci vuole anche una società che sappia gestire e assecondare le qualità di un campione come Ronaldo, cosa che la Juve non è stata capace, si è solo indebitata e basta, con pazienza, è andata così, per me la colpa è soprattutto di Agnelli e di tutta la squadra, perché io sono convinto che i giocatori della Juve, oggi non ci sono più, oggi magari vengo smentito, ma prima ero convinto che i giocatori della Juve, non essendo pagati all'altezza di Ronaldo, boicottavano la squadra, io ne sono più che convinto che era così, vabbè, comunque è andata così, pazienza, avanti Claudio. Massime espressioni del calcio moderno, anche se in fase calante, lui è arrivato all'apice, adesso piano piano ce li dai massimo un paio di anni, poi vedrai che se è intelligente stacca prima e molla il calcio, tanto attività e cose ne ha diverse, non so cosa cacchio c'ha di ospedali, non so quanti ospedali, mi sembra c'ha solo di ospedali, ne ha 4 o 5 nel mondo, ma cose grosse, hanno guadagnato più di 300 milioni di euro con gli ospedali privati che si è creato, ne ha fatto uno nuovissimo in Spagna solo con la cura dei capelli per la calvizia, non so quanti dipendenti c'ha, una cosa esagerata, non è uno stupido, è un grande imprenditore, al contrario di molti campioni che hanno sperperato tutto e poi si sono trovati, non dico poveri, però non ricchissimi come l'anno prima. Ok, di nuovo a te Giulio. Ok, certo, vabbè. Vabbè, premesso che non sono mai stati pagati con la stessa cifra, con lo stesso stipendio di Ronaldo, però tanti campioni, addirittura c'è gente che sta morendo di fame. Vede Ronaldinho, tanto per fare un nome così a caso, anche lui un grande campione, e tanti altri, adesso che non ne facciamo altri nomi, però purtroppo è così. Ma per dire, no, Quello, vabbè, a lui le annuate con i soldi, se li ha meritati, evidentemente se li ha annuati perché si è meritati. Io non sono d'accordo che si possano dare tutti quei soldi ad un giocatore del calcio, nella maniera più assoluta. Per me ci dovrebbe essere un tetto massimo imposto dalla federazione, perché non è possibile e non è giusto assolutamente che si debba fare un campionato a 3, 4, 5 persone per la promozione, 3, 4 o meglio o di 15 persone, 15 squadre per la retrocessione, perché le squadre che hanno i soldi, i campioni e gli stipendi li possono dare, le altre squadre non se lo possono permettere, dunque è anche forzato il campionato per conto mio. Dunque ci vorrebbe un tetto massimo per ogni squadra, non è possibile che possa essere parato così forte. Anche Messi, hai visto, anche Messi ha dei problemi col Paris Saint Germain, infatti in questa partita di oggi non l'ha convocato un pochettino, o Pochettino come si chiama. Sì, sì, purtroppo è così, dovrebbero fare, anche se è un po' complicato, tipo come fanno i tennisti, un ranking, come fanno con le squadre di calcio, per dire, ci sono in base alle presenze, in base ai titoli, eccetera, eccetera, per dire, Ronaldo e Messi, li metti poco del tocco, li metti un limite, per dire, non so, 10 milioni di euro, quello che è stabilito con tutte le società, non dai procuratori, dalle società, dice, stabiliamo il primo della classifica, tipo del tennis, Djokovic, eccetera, eccetera, gli diamo massimo 10 milioni all'anno, il secondo per dire 9 eccetera eccetera, poi tutti gli altri dal momento che sei in Serie A un minimo sindacale, quant'è? 500.000 euro, poi in base al rendimento a fine stagione cosa hai fatto? 10 partite, quanti gol hai fatto? In base a quello gli darei lo stipendio, gli darei un minimo di legge, e poi tipo quando lavori, c'è uno straordinario, lavori il sabato, la domenica, seguire il discorso dei coso, degli operai, così vedi che le musiche, ecco, i procuratori a casa, niente, non c'hanno niente a che vedere, cioè devono prendere soltanto i soldi, i giocatori, i procuratori, non è che tu devi conquistare un giocatore, devi pagare la percentuale al procuratore, ma stiamo scherzando, al limite tu giocatore, quando prendi 10 milioni di euro per andare alla Juventus, dal tuo stipendio gli dai la percentuale, come fa le agenzie immobiliari, quando vendi un appartamento, eccetera, eccetera, perché li deve dare la società, e questa è una cosa che non capisco, di nuovo a te giù. Ok, guarda, il calcio si sta sporcando, o meglio stanno permettendo che si sporchi in una maniera incredibile. Lei anche adesso stavo leggendo alla televisione che Sarri vuole denunciare l'arbitro per diffamazione. Poi l'altra notizia è che Arthur, che ancora non è rientrato a giocare con la Juve, ha avuto un incidente con la Ferrari. Fortunatamente non lui è illeso, ma per dire no. Insomma, sono problemi questi che purtroppo le società poi ne subiscono le conseguenze. Prima non era così, negli anni passati la società era padrona del giocatore e secondo me era giusto così, visto e considerato con tutti i soldi che danno per questa gente. Ma oggi come oggi no, non è possibile, nella maniera più assoluta. Comunque, meglio per loro. Avanti Claudio. Parliamo di Ronaldo il fenomeno, non ce ne sono stati giocatori a livello suo, forse Pelé, secondo me Maradona, però parliamo di quelli che ho conosciuto bene io, Ronaldo è fenomeno, non ce n'è per nessuno, è un'altra categoria, ma non detto da me, detto da giocatori tipo Messi, tipo Ronaldo e tipo Ibrahimovic, che stiamo parlando di campioni, hanno detto la velocità e la potenza fisica di Ronaldo do Nascimento, parliamo il fenomeno, il brasiliano non esiste, cioè se ti guardi qualche spezzone, io l'altro giorno ho visto, hanno fatto un documentario dedicato a lui, ma vi spaventate la velocità di esecuzione, c'era ai tempi di Cannavaro, Nezza, Maldini, ha detto non ce n'è, giocatori come quello lì non riuscivamo a tenerlo, ci umiliava perché era una velocità di un altro pianeta, infatti c'era, tu sei un alieno, non sei un giocatore di e purtroppo l'hanno spaccato un sacco di volte, si hanno rotto i legamenti, perché lui effettivamente ha giocato pochi anni, gli altri anni era sempre mezzo infortunato, ha avuto problemi di peso, eccetera, eccetera, ma era una forza della natura, non esiste, cioè non c'è per nessuno. Giulio, non so se hai visto il film Pelé, ti è capitato di vederlo? Sì, l'ho visto, certo che l'ho visto. Sì, ma fate questo, un grande campione, Ronaldo il brasiliano, così chiamato il fenomeno, indubbiamente, grandissimo giocatore, non ci sono dubbi. Però bisogna considerare anche che lui ha giocato sempre in Brasile, dopo il calcio è tutta un'altra storia rispetto al resto del mondo. E poi c'è da considerare soprattutto i numeri, quelli che contano nel calcio, non è tanto la velocità o la giocata fenomenale che uno può fare, quello che contano sono i numeri, e i numeri sono dalla parte di Messi e di Ronaldo e basta. Tutti gli altri numeri, un po' Lewandowski si avvicina, ma tutti gli altri sono lontanissimi anni luce da quei numeri, per cui siccome il calcio si vince coi numeri, e allora non è vero che Ronaldo il brasiliano possa essere superiore o a Cristiano Ronaldo o a Messi, per conto mio no, magari poteva essere un giocatore più di classe, più veloce come stai dicendo tu, più potente anche, questo sì, però quello che conta non sono i numeri, i gol segnati, i palloni d'oro vinti, le coppe campioni vinti, tutte queste cose che valgono, vabbè. Vabbè dai, facciamo girare, avanti Claudio. Ci picchiavano, adesso tu basta che soffi o dici una parolaccia, subito c'ha 200 telecamere addosso, a Maradona lo pestavano forte, se ne alzava, adesso appena ti sfiorano subito in terra, i giocatori sono molto più tutelati, tutti gli infortuni che ha avuto un Baggio, guai, adesso avrebbero arrestato con tutti i colpi che prendeva, o gli altri giocatori che erano forti di quel periodo, Zidane, Platini, li facevano a pizzi, basta vedere le giocate, però il calcio è cambiato totalmente. Ok, lasciamo, vediamo un attimino se è entrato Mirko Larghero. Mirko, ci sei? Visto, vabbè, adesso sta perdendo la Juve, adesso è 2-1, non è possibile che possa perdere con una squadra appena arrivata dalla Serie B, è vergognoso veramente, guarda. No, avevo girato, spento il telefonino, no, 2-1, che ha segnato? No, l'ho visto il giocatore che ha segnato, dopo te lo dico, tanto sicuramente ci hanno messo le sovraimpressioni, il nome del giocatore che ha segnato. Ma la Juve aveva segnato ok nel primo tempo al 28esimo, l'altro poi il primo gol della Spezia l'ha fatto Grissio, come si chiama. Questo adesso non ci ho fatto caso, stavo ascoltando a voi. No, adesso ho acceso, mi sto guardando in diretta su Dazon, 2-1. Aspetta, il gol ha fatto tutto di uno. Ah no, Ghisai e Antenise, non si capisce. Andise, una cosa del genere, non lo so come si pronuncia. Allora, io ho visto la formazione della Juve, poi ho visto la formazione dello Spezia, non c'è un giocatore che conosco, che abbia mai sentito nominare, non viene manco uno, figurati, e questi stanno vincendo 2-1. Ha detto bene Allegri, l'ha detto, non si sa, sperbattuta e cosa, questo è uno scontro diretto per la retrocessione, ha detto, per caricare i giocatori, infatti si vede. Cosa sto dicendo? Allegri non è vero che è un grande allenatore, nella maniera più assoluta, è un grande pasticcione, casomai, con anche la partita che ha fatto ad esempio sabato o domenica, forse l'ultima prima di questa, ha fatto degli errori madornali cambiando contro il Milan, premesso che il Milan, d'accordo, però ha fatto dei cambi assurdi, perché non è possibile, anziché togliere quel cadavere di Rabiot, me l'ha tolto a Morata, l'ha tolto per mettere la Chiesa, non è possibile, anzi no, l'ha tolto a Quadrado per mettere la Chiesa, anziché togliere quel morto di Rabiot, che Chiesa può giocare benissimo sulla fascia sinistra come può giocare sulla destra, invece lui ha lasciato Rabiot, e cosa è successo? Che su un calcio d'angolo poi il Milan proprio a causa di Rabiot ha segnato e dunque ha raggiunto il pareggio. Già lo so, però c'è di buono che non trova scuse, lui ha detto ho sbagliato le sostituzioni, mi aspettavo qualcosa di più, al contrario di come quello che hai nominato prima tu, il carissimo Sarri, che è un pagliaccio, lui, Conte e anche Gasperini sta diventando della stessa minestra, sono dei pagliacci che hanno sempre da lamentarsi, ma è una volta che dicono hanno giocato meglio di noi, purtroppo certo condizionati da infortuni, condizionati dall'arbitro, il campo che non serviva, e pide che caglia di muto, devi dire che l'altra squadra ha meritato di vincere, no, abbiamo giocato male, per quello l'arbitro ci ha dato un fuorigioco che invece era millimetrico qua, che stai a dire, e finiamo, e accetta anche la sconfitta, lavorare e guadagnare dei rubani, come dicevano ai tempi miei. Sì, beh certo, guarda, io sono il vecchino da sempre, da quando sono nato, però devo essere sincero, sono contento se perde anche lui, guarda, proprio per in modo che la Juve si renda conto del disastro e del danno che ha fatto, soprattutto il presidente, perché con lui è un presidente da eliminare, e speriamo che Elkan lo mandi via, perché non è lui quello che comanda la Juve, è Elkan che comanda, e ha rovinato la Juve a livello finanziario, a livello societario, in tutti i sensi, perché ha fatto scappare Conte quando c'era Conte anni fa, prima di Allegri, ha fatto scappare Morata e ci ha tenuto quel cadavere di Paratici, e abbiamo visto i risultati quali sono, basta, cosa vuoi che ti dice, si è preso quello lì, ha fatto fallire la Ferrari e si è preso questo, arriva bene o come si chiama, cosa vuole, fa fallire la Juventus, infatti fallirà anche la Juventus se continua così di questo passo, non è possibile Robè, assolutamente, va. È vergognoso veramente, avanti con Claudio. Dei fenomeni, Bambate, Maldini, Baresi, Pirlo, cioè erano Gullit, Rijkaard, non c'era per nessuno, in quegli anni lì hanno insegnato a giocare al calcio a tutte le altre squadre, erano di un'altra categoria, hanno vinto di tutto e di più, poi sono soppiantati da Real Madrid e dal Barcellona, purtroppo quando finiscono i soldi di lì a quei livelli lì, adesso non bastano più i soldi di Berlusconi, ci vogliono i soldi di cosa? La Juventus ce li ha i soldi perché non ha problemi di dinare. solo forse a livello di soldi può competere solo il Manchester City e il Paris Saint Germain. Loro basta che mettono una Fiat punto 10 euro in più o una Croma 10 euro in più, con tutte le macchine che vendono li investono. Come fa quel miliardario, quello sceicco, cosa aumenta di un millesimo di euro la benzina, il petrolio, e dice beh, compriamoci a Messi, non si va via i problemi. Sì, lo so, solo che la Juve non può spendere assolutamente, perché anche loro hanno un limite, è una società per azioni, non è che si può indebitare più di tanto, assolutamente no. Quest'anno ha chiuso i conti con 209 milioni di debito, l'anno scorso erano 89 milioni, adesso quest'anno sono 209 milioni di debito. Tu mi dirai, ma ci sono squadre tipo il Real Madrid o il Barcellona che sono a livello di 400-450 milioni, e infatti abbiamo visto la fine che stanno facendo anche il Barcellona, per cui stanno smantellando la squadra proprio per cercare di incassare i soldi, perché non è più possibile sostenere certe spese. È assurdo veramente, se continuiamo così arriverà la fine del calcio, non so fra quanti anni, però arriverà la fine del calcio, perché le squadre vanno a fallire, più di una hanno dovuto portare il registro in tribunale, tu lo sai benissimo, quante squadre di serie B, di serie C e anche qualcuna di serie A negli anni passati ha dovuto portare il registro in tribunale per fallimento, robe per cui lo sappiamo come funziona. Avanti Claudio. Facciamo un attimo nel bianco, se Mirko Dalghero è rientrato doveva innaffiare non so che cosa, il prato, l'orto, buh. Avanti Mirko, ci sei? Vediamo se Giulio ti ha ascoltato, se è riuscito a sentirlo Giulio. È un po' troppo basso, ciao Mirko, Giulio da Sassari, non so se tu mi stai ascoltando, ma suppongo di sì, magari bassino, ma mi dovresti sentire. Mirko, stai arrivando bassino, non ho capito tutto quello che hai detto, ad ogni modo farò più attenzione al prossimo passaggio. Avanti ancora Mirko. Il fatto è che c'è molto QRM, no? Stasera perlomeno io ho un bel po' di QRM, comunque mi fa piacere che riesci ad ascoltarmi, peccato che io non posso ascoltarti al massimo. Robe, adesso sta facendo entrare la Molatta, sta facendo entrare quel morto di Adil, sta cambiando, non è possibile, vabbè dai, comunque riprendi Robe. Sì, la sto seguendo, ma io non la vedo così critica la situazione, dai, il campionato è lungo, vedrai che reagiranno, il problema è che ci sono delle persone incompetenti, come hai detto tu, questo arriva bene, questo vendeva, lavorava in una multinazionale del tabacco, la Philip Morris, era un amministratore, eccetera, eccetera, poi era in buccia alla Ferrari, non sapeva, manco come ti si chiama, no, la candela, il cappuccio della candela, cioè, e questo che c'è adesso, un po' più, questo Binotto, un ingegnere, diciamo, c'è un più di competenza almeno del mestiere, a calcio hanno messo nel calcio, ci avevano coso Marotta che è riuscito a sollevare la Juve da zero, perché gli ha fatto fare due finali di Coppa dei Campioni, ha fatto acquistare giocatori importanti, li ha fatti vendere e se l'ha levato Vucci, e adesso si hanno preso a questo qua Cherubini, non so manco da dove ne sia uscito. Aspetta, andiamo scendere giù un attimo, Roberto, rientro subito. Eia, ok, avanti Mirko, avanti, facciamo un attimino il bianco Mirko, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, attenzione 10 che vuole entrare, nulla, vai tu Mirko, ci sei Mirko? Sì, siamo, comunque ti arrivano tutti bene, ho visto 7-8 arrivano tutti. Io ti ascolto 9, ti ripeto intorno a 9, anche di più in certi momenti, loro però tutti ti ascoltano basso, quello che mi meraviglia è che tu ricevi bene, però sei basso come segnale da parte loro, tutti 2, 3 sono. Io sono molto aperto, sempre presente, per Alghero, non ho ostacoli, al contrario di Giulio che lui ha coso. Zona di punti, dai, diciamo, con le zone lì, l'aria un po' nascosto perché c'è la collinetta di Monte Oro, però c'ha un'antenna che rende abbastanza, un buon apparato. Tu vari, se riesci a sollevare qualcosa, come aiutandoti con qualcosa come potenza, vari, riesci a farti sentire anche da quelli che ti trovano difficoltà. Aspetta, puoi cambiare un secondino, ti voglio sentire in FM adesso con l'antenna. Puoi andare, Mirko. Puoi mettere quello che vuoi e non hai problemi né di disturbi né di nulla, quindi c'è anche l'orticello, ti sei fatto, fai bene, è una cosa che a me mi è sempre piaciuto, avere una piccola coltivazione di ortaggi, pomodori eccetera, legumi, un pezzettino piccolo, non ho la possibilità perché vivo in appartamento, però c'avevo un terrazzino, mettevo qualche fiore, qualcosa. Poi se c'è un condominio magari capita che qualcuno non vede la televisione, anche se tu ce l'hai spento il baracchino, subito sei tu il disturbatore, c'è gente ignorante che non ha nessuna cognizione del caso, vedi là Giulio, addirittura lui era in vacanza e dicevano che era lui che disturbava, figurati, c'è gente, la giornata lì lo fanno a pezzi, ogni tanto c'è qualcuno per bisticciare, nonostante sta uscendo con 4 watt neanche, perché molte volte neanche li utilizza i 4 watt, eppure qualcuno vicino che c'ha male l'impianto d'antenna col cavo con la calza in vista e l'amplificatore per attenuare come si chiama, per amplificare ancora di più il rumore, per cui tu sei anche a 10 metri e ti entra tutto il disturbo. Vediamo se è rientrato Giulio, attenzione Giulio, Giulio non c'è, e vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, perché è sempre bene lasciare qualche secondino di bianco in modo che qualcuno possa entrare. Vai tu ancora, Mirko. Sì, quest'anno era abbastanza, anche troppa, nel senso c'è una sovramodulazione continua, ha collegato un sacco di cose. Diciamo la Spagna è molto facile perché è tutto aperto, diciamo, non abbiamo ostacoli noi, almeno Sassari, Alghero, non ci sono problemi a collegare le isole spagnole, Palma e Mallorca, Canarie, eccetera, eccetera. Quasi tutto l'anno lo fa anche senza avere propagazione troppo importante. Ok, di nuovo a te, Mirko. Ah, facciamo rientrare a Claudio, vai tu Claudio. C'è qualcuno vuole andare avanti? Buonasera, buonasera a tutti. Ehi, ragazzi, a te, ma anche se non ti intendo, cioè se non ti vedo ti intendo. Ciao. Ciao, ciao, come va? Da quando ho messo a posto l'antenna? Sì, la stai spingendo, dai. Abbassa la voce, bello, solo mi fai soldi. Il segnale è come 9.30? Sì, quasi 9.30, diciamo sei tornato tu da... Kappa, manco mare. Ehi, Claudio, Nicola, dove si trova in Albania? In che paese, in che città? Io ci sono andato decine di volte, la conosco benissimo, per cui... No, Vodafone è presente di lì, assolutamente, perché io chiamavo continuamente. E poi c'è Alba Telecom, di lì un gestore tipo come può essere qua Wind e cose del genere, però Vodafone funziona perfettamente. E l'unica cosa, quando, siccome il roaming ti costa 3 euro, appena attacchi il telefono, fa una telefonata, ti scaricano 3 euro dal credit. Benissimo, 30 km da Tirana sul mare, diciamo il porto di Tirana principale dove arrivano da Bari tutte le navi, i traghetti eccetera eccetera. No, il servizio benissimo, però il problema, siccome l'Albania non fa parte della comunità europea, almeno per il momento, il roaming è complicato di lì, magari se gli mandi un messaggio più su WhatsApp è più facile, perché molte volte ti cade, io c'ho il numero internazionale, parlo tranquillamente, continuamente posso parlare anche con l'Albania, però molti numeri normali, diciamo, se tu c'hai un numero di coso non è detto che riesci a parlare, perché dipende dal piano tariffario che c'hai, non ti permette di telefonare molte volte, dovrei fare un'applicazione, cioè fare una modifica di piano tariffario, se no non riesci a parlare, però su WhatsApp puoi andare tranquillamente, perché io ci parlo, non dico tutti i giorni, ma quasi, non esiste il problema. La copertura di Durazzo è una città importante, per cui, come può essere Sassari, sono 100.000 abitanti, molto vicino vicino all'Italia, perché non ci sono nessun problema di copertura. Più che altro può essere tuo il problema, non suo. O può essere anche suo, che lui ha una scheda italiana e magari non siete compatibili, anche se siete tutti e due in volo, a fondi lì non hanno il coso roaming. Per cui quando ero di lì a me mi scaricavano 3 euro ogni telefonata, ogni mattina che accendevo il telefono, chiunque mi chiamava 3 euro la prima volta, e restavi tutto il giorno, potevi trafficare in internet, eccetera. Se invece chiami, per dire, col numero che ho io qua dall'Italia e chiamo di lì, non ho nessun problema, posso chiamare tranquillamente. Sì, questo è il risultato, il mio foglio. Allora, ho preso la 1 di 3, non la prova con Luca, non la prova con Fatica, però ho provato anche su WhatsApp, cioè messaggi mi ricevono, quando mi risponde messaggi, capito, e lo chiamo, poi le cado la linea, capito, è proprio la linea fissa, perché non è che sono a parlare i messaggi, mi devo dire un sacco di cose, mi devo preparare, perché mi devo dire tutto il problema di cosa rispetta, perché mi devo accendo, e devo dire un sacco di cose, capito, infatti gli ho detto, poco fa che ero in questo con te, su di me, ci ho detto di salutarti anche, che non appena ha tempo passa a trovarti, caro Cognoschi, però guarda, sarà proprio lì a mettermi in contatto, e niente, scusate il mio foglio, riprendi il pombolo. Vai. Adesso, come si dice, adesso voglio fare una prova di alta potenza che sta scaldando e passo all'altra radio, passo, capito? Dai, che sfascini degli uccellini che c'è sul tetto, magari si attende anche il lampione della via. Si attende ancora di più, si attende. Cosa? Non sai cosa ha fatto Antonio? Non te l'ha detto ieri? No, che cosa? No, ho detto a Claudio, a vedere cosa ha fatto Antonio ieri. Claudio, non lo sa? No, non mi ha detto. La spia ha fatto, cacchio, mi ha fotografato l'antenna e poi mi ha mandato la fotografia. In quel momento non ci ho fatto caso. Ho detto, ma chi c'è l'antenna mia, cacchio? Sì che c'è, no, mi ha mandato via WhatsApp. Per un momento ho pensato fosse un'antenna di casa sua, non l'ho guardata bene perché poi non l'ho ingrandita. Ho detto, ma questa è casa mia, ho detto un'antenna mia. E te dove l'ha fatta questa foto? E poi mi ha detto, da fronte a me l'hai fatta tanto, vero? Lì, non a cliente te l'ho fatta. Ma a che piano eri per fotografare? Al primo piano. Al primo piano. E come hai fatto a fotografare la... Ma fuori in strada eri? Fuori nel terrazzino. Ma al primo piano verso l'officina o all'interno? Verso l'officina. Quindi sei andato da coso? Più? No. Da Pala. Manzi. Ah, vabbè. Ok, ho capito, capito. Sei entrato, vabbè. Ciao Antonio. Nel giro di un paio di minuti ha ribaltato il risultato. No, adesso ho dovuto scendere giù a spostare la macchina che stavano facendo dei lavori per strada. Ah, capito, a proposito, cambiando discorso, tutto il macello che è successo a Predaniele. No, e cosa è successo? Informami. Cazzo, non sapete niente. Dove c'è Urospini, Mauri? Ha preso fuoco.